strada per Codogno, quante cose puoi incontrare, quante buche da evitare, se a Codogno devi andare. E attenzione devi fare a chi a Codogno vuole andare e la strada non sa. Sulla strada per Codogno, poco prima di Casale, quante cose puoi notare proprio sulla provinciale. Auto ibride, moto elettriche, con il buio che ignoranza, senza luce va il ciclista vestito di blu. Sulla strada per Codogno, quando sei sulla statale, quanti nutrie da evitare vengono fuori dal canale. Un vecchietto sulla panda, piede fisso sui 40. C'è un pistola che non sa come si usa il fendinebbia e un monopattino. Sulla strada per Codogno, quante bestie puoi vedere. C'è la volpe che va forte, attaccata al tuo sedere. Il caprone al cellulare che col verde non si spiccia e un merluzzo alla rotonda che non sa cos'è la freccia. Sulla strada per Codogno, ma sul tratto autostradale, nessun'auto sulla destra, tutti in corsia centrale. Non sorpassano, non si spostano. Se c'è il camion che sorpassa, il sorpasso durerà 10 chilometri. Sulla strada per Codogno, quando arriva un temporale, tutto il flusso si trasforma, più nessuno sa guidare. Il trattore fa il gradasso, non agevola il sorpasso. C'è un pedone che attraversa, anche se non c'è la striscia, appena arrivi in città. Strade di Codogno, quando stai per arrivare, quante cose puoi vedere quando devi parcheggiare, tutti i posti già occupati e persino un monopattino, l'arrogante che parcheggia tra due posti sulla striscia. So che vuoi fargli del male, ma gli dici solo vada via al blues.